Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Είναι μεγάλο σαφύριο. Έχει από κάτω κι άλλα δύο. Έλα και πια στο σφιχτά. Questa mattina vi presenteremo la fabbrica dei consigli inutili. Oggi lambiremo soltanto luoghi comuni, luoghi comuni nei confronti della Grecia. Ma hanno tolto questo fantastico sottofondo, che era una versione greca presa da un filmaccio degli anni 70 di Amada mia, amore mio, e in realtà si parlava dell'ergalio. L'ergalio non so cosa sia, reminiscenze classiche che mi portano a Esiodo, emera caierga, dovrebbe essere qualcosa tipo l'ordigno, l'attrezzo, ma non so bene cosa significhi. Diciamo che il video mostrava oggetti abbastanza facilmente identificabili in qualcosa di innominabile, perlomeno a queste latitudini. Beh, oggi vorremmo che voi deste sfogo a tutto ciò che sapete sulla Grecia. Noi stiamo leggendo, ascoltando, siamo intrisi di grecità in questo momento, ma io sono convinto che gli italiani hanno della Grecia una nozione che è fatta da input che posso classificare semplicemente in: primo, come ho citato prima, qualche rimasuglio di cultura classica, ma ormai sempre meno; secondo, notizie e racconti di nonni che hanno fatto la sfortunata campagna dello spezzamento delle reni alla Grecia, che poi non ha spezzato niente, negli anni 40; terzo, qualcuno che comunque ha vissuto intensamente gli anni della contrapposizione violenta politica e si ricorda che comunque da metà degli anni 60, più o meno a metà degli anni 70, ci fu una dittatura di colonnelli greci che rappresentava un punto di richiamo emotivo per tutta la destra estrema in Italia. Ultima illusione della Grecia, una sorta di paradiso perduto in cui c'era sempre delle isolette felici, tranquille, e dove si andava, si cominciava ad andare, diciamo, le prime persone andavano perché si costava pochissimo. Vai in Grecia, sai, affitti la casa di un pescatore per pochissimo, ti porta tutte le mattine il pesce fresco. Poi farò anche sentire di quale qualità e quali traumi poi creasse una volta tornati in Italia quel pesce fresco preso dal pescatore in Grecia. Beh, questa mattina siamo proprio qui per affondare fino in fondo, fino alle ginocchia se possibile, nel luogo comune legato alla Grecia. Date subito il vostro contributo, 800240024. In questa riunione, che passerà alla storia come il convegno del 14 giugno, giorno in cui un manipolo di patrioti si organizzarono per rovesciare il regime della vergogna, regime che aveva abbassato l'Italia, già libera signora, fra libere genti, al rango di serva e schiava del comunismo internazionale, è per me un onore presentarvi il vice capo dei servizi segreti della giovane ma già affermata Repubblica Ellenica, della quale ci porta il cameratesco augurio il colonnello Andreas Automaticos. Italy, esis che to Israel steta mona democratica krati pou vriskonte sti mesogio. To andragati masas te paraferi din Italia sta la samas και εις το ρόλο και στο δυτικό πολιτισμό και να την κάνει σίγουρο λιμάνι για τα πλοία της Ατλαντικής Συμμαχίας. Ας συνεχίσουμε μαζί τον αγώνα ενωμένοι μέχρι τέλους. Τι ha detto? Boh, per me è greco. Ora questa, Abbiamo iniziato naturalmente non seguendo un ordine cronologico nelle suggestioni, nei luoghi comuni, nelle inutili e cascami le nostre memorie legate alla Grecia, perché qui ci interessava comunque ribadire un luogo comune, anzi due luoghi comuni. Italiani greci, com'è, stessa razza, stessa faccia, dicevano i nonni che erano andati a fare la campagna che doveva spezzare le reni alla Grecia. E per dire qualcosa che non si capisce, per me è greco. Giuseppe Sansonna, che naturalmente ha delle responsabilità nel tentativo di spezzare le reni alla Grecia, essendo pugliese, lo spezzamento delle reni partiva dalla penisola salentina e doveva colpire al centro, proprio al punto di vista della parte renale della Grecia, appunto il territorio noi dobbiamo conquistare e stirpare. Giuseppe. Le mie responsabilità in realtà attingono a un altro Giuseppe Sanson che si trovava a Rodiegeo negli anni 40 ed era mio nonno, uomo ferocissimo, che scelse Rodiegeo perché era l'isola più lontana in cui ti mandavano e quindi dove pagavano di più la trasferta, e quindi partì. Aveva bisogno di denaro. No, non spinto da nessun impulso patriottico. Un mercenario. Avuto, ma da una grande ferocia. E ci sono delle immagini sue, sempre una foto bellissima dove lui, che era al di là dell'eterosessualità, era iper ferocemente eterosessuale. Tutti dicono così. No, certo. No, però c'è questa foto in cui sono per difendere anche la virilità della tua stirpe. Ti dico, adesso ti racconto la foto. Aveva fatto anche l'amore greco, che è notorio, quando uno va in Grecia quello fa. Sono tutti abbracciati a torso nudo, tutti i cobritoni italiani sull'isola, abbracciati in un valzer, ed è questa è una delle poche qui foto. Qui sarei finocchito andando in Grecia. Era una gestione, insomma, della condivisione del momento su quest'isola, e appunto, cioè, l'isolamento porta anche a questo. Agostino, primo luogo comune, vediamo cosa vince. Agostino, buongiorno. Luogo comune sulla Grecia. Luca, salve. Io dicevo, voglio dire, un luogo comune che secondo me è la cosa forse più scontata. Cioè, noi italiani avremo anche un debito grosso, ma abbiamo la Fiat, abbiamo la Barilla, abbiamo le più grandi aziende. Sì. Cioè, loro che cosa fanno? Olive, yogurt, feta? Cioè, non so se beh, mi spiego. Aspetta, c'è l'Uzzo, l'Uzzo c'è senz'altro, poi c'è la moussaka, c'è un sacco di cose. Il luogo comune è completo. Sì. L'uso musa. Comunque, olive e yogurt. Si va in Grecia, abbiamo mangiato per un mese soltanto yogurt, vero? Certo. No, certo. Io però ricordo uno yogurt favoloso invece nell'infanzia a Cefalonia. Era quello davvero che ha preso tuo nonno quando è andato. No. La mia nonna appunto invece era lì e raccontava anche del fatto che ti facevano dormire insieme a loro nel letto. Lui raccontava di aver inseminato qua e là, ma erano tutte milanterie secondo me. Si ritorna sempre a quella sorta di classico esempio di amore greco. Uno dei suoi commilitori l'avevano eviscerato e crocifisso perché pare che avesse tentato di approfondire troppo. Non abbiamo detto su una cosa, il film Vogliamo i colonnelli, visto che la citazione era fuori da tempo, era già però a un'epoca in cui i colonnelli erano colonnelli degli anni 70. Esatto, era del 73, quindi sarebbe finita per il 74, la dittatura dei colonnelli, e si raccontava in maniera un po' folcloristica queste figure che alimentavano, come dicevi tu, l'estrema destra italiana, e qui si parlava del sognavano sempre un colonnello greco borghesi che venisse a spiegare agli italiani come conquistare il potere. Diciamo, i fuoriusciti contrapposizione violenta politica andano tutti a rifugiarsi in Grecia, c'erano i colonnelli, non vedono l'ora che gli italiani diventassero come loro. Ma torniamo al luogo comune meravigliosamente lambito dal nostro ascoltatore, le olive greche, perché è stato motivo di ispirazione di un film. Nei luoghi comuni si galleggia e ci si contamina. Guarda che ti ho fatto a sto negozio. Bene, andiamo da così a così. Te l'ho rifornito di tutta la roba, ci ho speso le milioni, ma tutta roba di prima qualità. Che senti sto prosciutto che devi, senti come dura. Ho mangiato. Senti che sto prosciutto, ti ho detto, è dolce. È un zucchero, Sergio, lo senti? E sto olive, senti sto olive, queste sono greche, sai? Grechi. E no, ma dai, sono grechi. Sono buone. Come sono, di la verità. Sono greche. Ecco, l'oliva greca, diamo il contesto filmico di questa Borotalco, citazione. Borotalco, qui c'è un immenso, titanico, Mario Brega che infila nella trachea di Carlo Verdone l'oliva greca nera, lucida, che appunto era un simbolo di autenticità, di genuinità, di bontà, salate meravigliose, che appunto in pieni anni 80, qui stiamo parlando del pieno periodo in cui si andava coi camper in Grecia, in Jugoslavia, si facevano queste vacanze nelle isole, già si alimentava il mito della Grecia come luogo esotico a due passi da stanno casa. Arrivando tonnellate i luoghi comuni, che l'isola di Mykonos sia popolata soltanto da gay. Infatti ho amiche che vanno sempre a Mykonos perché tornano con il loro Winchester pieno di tacche. Tutti pensano, dove va tua moglie a Mykonos, dove va tua amica a Mykonos, ma tanto lì sono tutti foci. Negli anni dell'adolescenza era un'isola pan erotica per tutti i gusti, per tutte le inclinazioni, quindi non solo. Cioè. Come si può switchare? Riccardo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Luogo comune sulla Grecia. Io non ho dei grossi luoghi comuni in merito, ma ho visitato l'anno scorso le zone interne della Grecia a bordo del mio fuoristrada. C'è da dire che sono realmente prive di infrastrutture. Ecco il luogo comune, tutti vanno in Calcidica nell'isola e non vanno nella vera Grecia, che è il Peloponneso, che il tempo si è fermato. Altro luogo comune, perfetto, bellissimo, è stupendo. Cani! Non credevate che io tornassi da Troia? Volevate rubarmi la moglie e il regno, assassinarmi il figlio senza temere le ira di dei né sdegno di uomini. Per tutti voi è finita, perché vi ucciderò come cani! Telemaco! E non sperate che risparmi qualcuno! Nessuno di voi uscirà vivo da questa casa! Se tu sei veramente Ulisse, tornato a Itaca, allora le cose che dici sono giuste. Ma ascoltami, colui che fu causa di tutto è morto ora per tua mano. Antino solamente macchinava... Questa era l'Odissea che andò, che la RAI trasmise con i riassunti fatti da Ungaretti, non si capiva una mazza, che permise a chi non aveva mai fatto il liceo classico di avere delle infarinature di Grecia classica, di epica. Era il 1968 e il vero collante classico era appunto questo tipo di sceneggiati con un protagonista becchinfemio che faceva Ulisse. E qui nasce anche la raffigurazione mitica di tutto il cosmo, di miti, di dei, degli greci, come l'abbiamo visualizzato noi. Ancora non c'erano i videogame, la gente o studiava o guardava la Mario RAI. Mario Bava girò la meravigliosa scena delle sirene con questi cori meravigliosi che avvincono Ulisse, però era lì che nasceva appunto l'idea del greco astuto, del greco geniale, del greco capace di... Sì, beh, Ulisse è l'unico, Ulisse, gli altri erano tutti coglioni. Certo. Allora, i fiumi della Grecia, ricchi di gloria e poveri d'acqua, bello luogo comune. Poi altro luogo comune, i souvlaki. In Grecia si mangiano i souvlaki buonissimi, in realtà sono gli arrosticini che fanno anche alle pendici del Gran Sasso in Abruzzo, arrosticini. Poi vediamo un po' l'isola di Kos, l'isola delle lesbiche. Cioè, perché in Grecia c'è sempre questa idea che comunque... Ma vediamo, andiamo avanti. Anna, buongiorno. Buongiorno. Luogo comune Io sulla sono Grecia. Sono stata più volte in Grecia come turista e sono stata estasiata dalle meraviglie archeologiche, ma sui greci moderni avrei qualcosa da dire. Dica, il momento, confermi i luoghi comuni. Quali sono le cose da dire sui greci? Allora, sono stata a Rodi, ad Atene, Peloponneso, sì. Creta, ecco. Sì. E quindi in anni diversi. Ospite di pescatori. Che posso dire che io non ho trovato un popolo accogliente, non ho trovato un popolo attivo, perché nei paesi dove ero, sulle spiagge, cercavo... Se non staremmo a parlare, non staremmo a parlare di referendum dopodomani, è chiaro che ci sono dei luoghi comuni che affondano le radici in un pregiudizio lontano, che ci sono dei margini comunque di realtà, se no non staremmo a vedere la situazione che c'era. Quindi, ma qual è, lei cosa lamenta personalmente, soprattutto? Pronto? Cosa lamenta personalmente rispetto alle sue aspettative? Ecco, di questo ristorante, niente, sono stata intossicata, sono stata male tutta la notte. Ah, ha avuto un attacco di diarrea e questo è il suo problema. Non so, pesce non fresco. Lo so. E allora, guardi, signor... Sì, prego. Prendere botte, perché mi sono trovata nell'80, quando c'era stata quella... Sì. Guerra con la Turchia, no? Sì, breve. Cioè, sì. Ecco. In pratica io al campeggio avevo detto che il giorno dopo sarei passata in Turchia con il traghetto. Certo, però erano in guerra. E in pratica mi sono trovata io, mio marito e mia figlia accerchiati, no? E tutti cercavano di convincermi di non andare in Turchia. Circondata da uzzoni arrabbiati che dicevano non andare in Turchia che c'è la guerra. Non senza... sento deve parlare più forte. Sì, sì, lo so, ancora sono le conseguenze dell'intossicazione del pesce greco poco. Ah, sono già 47, dobbiamo dare il traffico. Era interessante andare avanti sulla scia di questo ricordo, ma riprendiamo fra un nanosecondo. Melog. Cronache meridiane. Io pensavo, ma che cacchio, tutti quelli che ritornano dalla Grecia sono stati sopra un'isola deserta, tipo ciò presente 2 chilometri di spiaggia vuota col capanno e pescatori, ma contando tutti quelli che mi dicono sta cosa, io mi chiedo quante cazzo risolacce deve averci questa merda di una Grecia. Questi pescatori greci non potrebbero pescare in alto mare ed impiccarsi con le reti senza andare a importunare le ragazze come te, che normalmente sono brave ma travolte dagli eventi non disdegnano di fare la... Ta-da! Questo è Claudio Biso, che ha avuto un'esperienza sfortunata, probabilmente una citazione autobiografica, una fidanzata è andata con un'amica in un'isola greca dove c'era la casa abbandonata, il mare, la spiaggia deserta, il pescatore gli portava il pesce tutti i giorni e il risultato è questo. Ma ci sono altre generazioni diversamente segnate dalla Grecia. Chi di voi è stato segnato da Kakoyiannis? Quanti danni ha fatto Kakoyiannis nel vostro immaginario? Zorba il greco, il Sirtaki, tutti ballano il Sirtaki, erano anni 60, io vedo le mie zie che avevano una quindicina d'anni più di me, che ballavano il Sirtaki, perché c'era Zorba il greco, ballava il Sirtaki. Ma vuoi mettere Angelopoulos, Mega Alexandros, dei film da sfrantumamento gonadico totale, ma bisognava andare a vedere Angelopoulos. Sì, sì, è stato un po' un'icona, purtroppo scomparso da poco, però è vero, c'era questa ritualità estrema, questa lentezza che diventava appunto... E ti piace un po' il tuo stile? No, non tanto. Tu sei su quella scia di Angelopoulos. Per nulla. Proprio. Tu in quanto pugliese sei influenzato il tacco, che poi non sono salentino, io sono della zona del Barese, il tasco che spezzava le reti. Puglia, dai, su. Andrea, buongiorno. Andrea? Andrea? Sono Ciro. Ah, Ciro, vabbè, parla Ciro, è la stessa cosa. Vabbè. Sì, Nicoletti, buongiorno. Buongiorno, no, io sono stato segnato dalla Grecia con un'esperienza negativa che ho avuto 30 anni fa, ero un giovane ventenne con un mio amico, andiamo in moto a fare un giro dalla Grecia alla Turchia. E la cosa che ci dicevano tutti in Grecia era italiani, greci uguali, una faccia, una razza. Sì, una faccia, una razza. Invece... una razza, tanto è vero che il giorno dopo ci hanno rubato la moto, parcheggiata davanti all'albergo col portiere di notte, che l'indomani mattina aveva detto io non ho visto niente, non ho sentito niente. Cioè, una faccia, una razza. Abbiamo fregato la moto e siete tornati con l'autostop. Siamo tornati su una moto in due con due zaini e due borse, quattro borse. Cornuti ammazzati. Mi dispiace veramente, sono cose che segnano. Martina. Martina? Sì, sì. Altro luogo comune che lei può confermarci o smentirci? Che i greci non lavorano, tanto che che lavorano poco, e questo non è vero perché i greci non hanno neanche pausa pranzo, prendono un panino. Lei greca, è greca, Martina? Lei greca? Sì. Difende se stessa, però, lo dica, pro domo sua sta parlando. No, io non vivo in Grecia da 20 anni. Vedo come lavora la mia sorella, certamente lavora molto di più di me, anche se non ho vissuto solo in Italia, ho vissuto in 6 paesi nel mondo e posso testimoniare che i greci lavorano molto di più di tutti gli altri paesi che io ho vissuto. Del mondo, ma sì, ma questo ne sono convinto, ma noi questa mattina stiamo calcando in maniera scellerata il luogo comune, cioè stiamo affogando. Il luogo comune è che i greci non lavorano e ho smentito questo. È che non è vero, ce ne sono altri. C'è un altro luogo comune che ha detto un ascoltatore prima, che la Grecia produce solo olive, olio e pomodori e pane. Invece ci sono componenti dell'informatica di alta tecnologia che vanno a finire nelle schede coreane, che sono prodotte da piccole ditte di giovani ingegneri, che sono importante. 10 o 15, dappertutto in Grecia, che in questo momento sono sotto pressione economica. E voglio anche capire la tempistica di questa emissione, perché adesso, quando... noi europei dobbiamo mostrare solidarietà verso il popolo greco, non perché siamo... io sono italiano, sono anche italiano, sono sposata, ho dei figli che sono metà italiani, quindi voglio capire, noi siamo in una famiglia europea, dobbiamo mostrare solidarietà, non è il momento di fare una emissione su queste cose, grazie. Sì, no, ma guardi, io sto facendo esattamente che un po' lo stile di questo programma, prevenendo quelli che possono essere i discorsi dietro le righe. Gli italiani, capendo poco generalmente di economia, leggono, imparano, sentono, leggiucchiano, ma hanno un'idea della Grecia probabilmente arretrata, arcaica o legata a questi filoni di luogo comune che sono gli studi classici bene o male fatti, la storia dei colonnelli greci di cui non esiste più alcuna traccia, penso nemmeno più organica. L'idea di questo paese in cui andavano a fare delle vacanze, vacanze fricchettone negli anni 70-80, perché costava poco, e c'hanno sempre questa esperienza a base appunto di pesce fresco, olive, moussaka e via dicendo. Roberto? Roberto? Sì. Sì, scusa, sono in macchina. Allora, però mi sono fermato. Volevo raccontare questa storia, visto che conosco abbastanza bene la Grecia, l'ho fatta per svariati anni con il camper. Mi trovavo nel Peloponneso, in mezzo alle montagne, e improvvisamente mi si è rotta la cinghia del camper e non potevo più camminare. Si è fermato un angelo, devo dire, un ragazzo che mi ha indicato dove andare, da un certo Dimitri Meccanicos, in un paesino che avevo appena superato. Vado lì, torno piano piano col camper, il pezzo non c'era perché loro non hanno tante Fiat lì, ma hanno macchine francesi, tedesche. Vabbè. E quindi? Mi dice domani avrai questo pezzo in mezzo alle montagne del Peloponneso. Io mi sono fermato e ho detto dovrò aspettare una settimana, il giorno dopo era sabato, è arrivato arriva il col pezzo. Motorino, mi sventola il suo pezzo, il giorno dopo è riuscito a montarmelo. Come si è arrivato? Considerando lei vorrebbe sottintendere nel luogo comune che stiamo ripercorrendo questa mattina che un altro italiano con un camper dello stesso modello il suo sta ancora piangendo e dice avevo un camper, l'ho parcheggiato. Io in tanti anni sono sempre stato trattato bene, sempre vabbè, ma nessuno ha mai detto questo ma si sta giocando questa mattina, non è che figuriamoci, non abbiamo nessun tipo di pregiudizio verso i greci, anzi ci piacerebbe stare in Grecia in questo momento invece che stare qui al caldo con Sansone. Ma voi che cosa trasportate? Reclute per i bordelli militari. E il soldato italiano sopporta tutte le privazioni, ma quella no. Senti un po', Coso. E che tu mi dai se te ne scendo una che è ancora intatta, come l'ha fatta la sua mamma? Al bacio. Oh, buonasera, bellezza. Accomodatevi, ufficiale. È pieno di donne, ragazzi. Per noi questa sera o domani è la stessa cosa. Ma una di noi ha la sifilis. No, Giuseppe Sansone, se noi abbiamo schifosamente ripercorso luoghi comuni sulla Grecia, il luogo comune dell'italiano pappone rimane sempre indelebile. Cosa stiamo parlando? Sono nel luogo comune, ma era il film Le Soldatesse del 65 di Valerio Zurlini che lo definì un atto di contrizione verso il popolo greco. Qui si racconta appunto dell'occupazione italiana e un giovane protagonista, Thomas Milian, ancora non immonnezzito, trasporta appunto, giovane ufficiale, porta queste ausiliarie, così vengono chiamate, cioè delle ragazze greche destinate al piacere, in ogni guarnigione italiana lungo il percorso che lo porterà all'Albania, ovviamente in Albania, e si creano ovviamente dei rapporti interpersonali fra di loro. Viene descritta appunto questa figura di figure legate alla fame estrema, costrette alla prostituzione. Qui abbiamo sentito anche la voce di Anna Carina, che è signora Godard, che fa una delle che doveva essere vergine, invece portava la sifilide. Grazie Giuseppe Sansone di questo illuminante contributo a capire meglio quello che sta accadendo in questo momento in Grecia.